sento leggero come il vento, sopra il mio cavallo. Tu lo sai cos'è la felicità? La differenza tra sella e stella sta nella T, non è l'altezza. Quando sono sopra potrei mostrarti il mondo quanto è bello, potrei invitarti sulla luna e sai non è casuale che equitazione faccia rima con emozione. La vita, scappare dalla mia città, ricercare la felicità, saltare ostacoli è un'abilità ed io ce l'ho da sempre nel DNA. Questo prato sembra infinito, sopra un unicorno non è il paradiso. Non solo più sogni ma forse realtà, lo senti questo senso di libertà. E un nuovo giorno arriverà, io non aspetterò che passi. La mia vita come arriva, l'impronta dei miei passi. Si è fermato il tempo da quassù, il mio ricordo è come un déjà vu. Animale, uomo essenziale, ogni salto è spaziale. Dai poli all'equatore ho girato il mondo, fino in fondo non conosco il sonno. Quando inizia la gara non so più chi sono, perché siamo in due, tutti che cercano sempre la fine, senza pensare a quanto sia bello sognare. Quante sono le vittorie e le rinunce, come un racavallo ho toccato il mio traguardo. Le mie terre e le mie conquiste, fino alla fine calcando tutte le piste. Cavalcare è sempre lontano, il passato non lo guardare. Su di un cavallo, sai non esiste specchio, retrovisore. E un nuovo giorno arriverà, io non aspetterò che passi. La mia vita come arriva, l'impronta dei miei passi. Si è fermato il tempo da quassù, il mio ricordo è come un déjà vu. E un nuovo giorno arriverà, io non aspetterò che passi. La mia vita come arriva, l'impronta dei miei passi. Si è fermato il tempo da quassù, il mio ricordo è come un déjà vu.